deleterio sia veementi, in amari fine lo correventi, a queste materia sine sine menti, simili sofoneo ben voluto venti, consideri proprio viro sapienti, sopra per la polvere sei gli appuntamenti, tutto seguo con parole fluviolamenti, superiore tramite lunga permanente. Mortus in anima, curam gelo tuo.